E così siamo rientrati sulle note del neuroscettico e, come già vi avevo anticipato, sta per iniziare la nostra intervista con Antonio, appunto il duo bucolico. Ma prima vi vado a presentare un po' quello di cui abbiamo parlato un pochino anche prima. Infatti era il giusto modo iniziare appunto questa parentesi di intervista all'interno del nostro lunedì di Fujiko Factory. Abbiamo appunto trasmesso Non è per sempre, la versione dello stato sociale della canzone degli After Hours, portata su un palco comunque importantissimo appunto per lottare e dar voce al, appunto, a tutto il mondo dello spettacolo fermo da un anno. Da qui poi anche il lavoro di 2 anni del Sunair Festival, che si va appunto a concludere il 18 e il 19 marzo. In questi giorni appunto daremo voce a tutti questi fantastici artisti che si esibiranno. Noi non vediamo l'ora, saremo appunto in diretta da Modena, ma appunto il 19 ci sarà i Superman, che è appunto il progetto artistico Duo Bucolico e i Camillas, dal appunto Circolo Arci di Cesena, dalla Romagna. Ma intanto lo abbiamo in collegamento telefonico, quindi buongiorno Antonio. Buongiorno, salute a tutti. Tra l'altro in questi giorni, mentre stavo preparando questa intervista, mi sono ricordata di quando noi vi abbiamo avuto lo scorso anno, anzi un anno e mezzo fa ormai, qui dagli studi di Radio Città Fujiko, e insomma noi ce lo ricordiamo ancora tutti il vostro live qua negli studi. Sì, dai, siamo passato un secolo, eravamo in presenza. Sì, esatto, era incredibile. Ci toccavamo, ci guardavamo, ci sentivano, sì, degli odori, adesso è tutto scomparso. No, tra l'altro noi abbiamo ancora il video, infatti poi lo ripubblicheremo, perché era stato qui. Eravamo qua negli studi in tanti, perché eravamo io e Giovanni a fare l'intervista, poi c'erano i ragazzi della redazione, quindi ci siamo goduti questo piccolo live tutti insieme. Sì, dai. Erano periodi in cui la parola assembramento non si conosceva, insomma, non veniva usata così tanto spesso. Erano bei momenti di assembramento. Sì. Adesso sembra una cosa negativa, in realtà l'assembramento è una gran figata. Esatto. Poi quando insomma si è a far musica tutti insieme, poi mi ricordo soprattutto la nostra chiacchierata in cucina, in cui insomma ci avevate raccontato un po' in retroscena anche tipo, non so, del concerto con Jovanotti, insomma tante cose, esatto, belle, esatto, quando si, sì, poteva appunto respirare musica e respirare live, che a noi appunto, certo, mancano tanto, deduco ovviamente anche a voi. Torneremo presto, perché dai, noi siamo fiduciosi. Devo dire che noi la scorsa estate, per fortuna, con l'ausilio di organizzatori motivati, la nostra etichetta, il nostro booking ci ha fatto lavorare, quindi siamo stati contenti, se non altro, di aver sfruttato la scorsa estate per riuscire a fare almeno qualche concerto in totale sicurezza, come era con tutti i protocolli. Però comunque noi abbiamo suonato, quindi in realtà non è tantissimo che manchiamo, e questo, cioè, non è passato un anno, questo che voglio dire. Poi dopo si è ribloccato tutto e adesso con il bel tempo si spera di ritornare a solcare i palchi, che insomma è la nostra vita, quello che ci manca, quello che dobbiamo fare con la gente, e poi prossimamente con la gente in piedi e assembrata, giustamente, quando tutto sarà finito. Esatto, perché sì, te giustamente parlavi di quest'estate, ed effettivamente quest'estate qualcosina si è mosso, però ovviamente erano concerti giustamente con tutte le accuratezze del caso, distanziamento, però a noi manca fare i poghi, insomma, manca, sì, ballare, dai, sotto, sì, palco tutti insieme. Ma esatto, cioè alla fine gli unici a potersi muovere eravamo io e Daniele sul palco. Abbiamo fatto spesso concerti in duo, non in quattro come l'estate prima, dove uscivamo anche con la band. In realtà ci siamo ridimensionati, facevamo questi concerti in duo, ballare da solo alla fine, sai ballare, cantare, muoverti quando tutti sono seduti, non ci siamo molto abituati, ci siamo abituati subito, però non eravamo abituati, quindi all'inizio mi sembrava proprio di fare la figura dell'esaurito, capito, che si muove, che si dimena da solo, perché in fondo avevamo una sorta di potere che gli altri non avevano, no? Uno spazio libero incredibile che è il palco, no? Che a volte ti dà quella dimensione di essere fuori dal mondo, no? Che è anche fuori delle regole, perché comunque il palco ha sempre delle regole sue, che sono a volte molto spesso lontane dalle regole normali, no? della convivenza civile, anche a volte. per fortuna, voglio dire. Eh beh, se non si può, esatto, è un grandissimo e bellissimo spazio di libertà dove appunto si può, forse in pochi altri posti si può essere davvero chi si è, quindi insomma da anch'io sono stata su pochi palchi, ma su quelli su cui sono stata effettivamente è una botta di adrenalina e di energia che manca a me, quindi sì, mi immagino insomma quanto possa mancare a voi. Ma a proposito di palco, arriviamo al sì, Sunair Festival, quindi certo, anche questo è un gran coraggio che ha avuto l'Arci di organizzare un evento così bello e importante che forse ci può dare un po' di speranza. Sì, sicuramente sì, anzi noi ringraziamo anche perché ci ha dato l'opportunità di realizzare un progetto che avevamo già in mente da tempo. Come tutti sapranno, purtroppo il Covid ci ha portato via una persona straordinaria che è Mirko Bertuccioli dei Camillas, sì, con il quale avevamo cominciato a vederci nelle nostre buie stanzette. Assieme a Vittorio, che è l'altro componente dei Camillas, io e Daniele avevamo cominciato a vederci fare le prove per creare questo gruppo nuovo che era la fusione dei Camillas con il duo bucolico, e avevamo deciso di chiamarci Superman. Quando è successo poi quella drammatica cosa che insomma ci ha portato un dolore veramente gigantesco, un vuoto ancora che è difficile da colmare, è difficile anche parlarne in un certo senso, no? Perché comunque era un artista, una persona straordinaria che era assolutamente un tradunione, un legante di qualsiasi artista con lui abbia avuto a che fare, in qualche modo gli si incollava, non so come dire, era veramente appiccicoso Mirko dal punto di vista proprio bello del termine, no? E quindi dopo questo grande dolore, questa grande mancanza, ci siamo in qualche modo ritrovati e abbiamo pensato che era giusto comunque rinverdire, no? E riproporre quello che era stato quella piccola parentesi, quell'esperienza del duo bucolico assieme ai Camillas, per creare delle canzoni nuove, per creare un progetto nuovo che non fosse né l'uno né l'altro, che è una sfida molto grande perché comunque ognuno ha la sua cifra, ognuno ha il suo modo di scrivere, il suo modo di vivere il palco, e ci siamo detti che era giusto comunque portarla avanti questa cosa, e l'Arci ci ha dato la possibilità di fare il primo passo, perché ci siamo incontrati a Riolo Terme in una location formidabile, cioè la stanza più alta del castello che sta al centro di Riolo Terme, e abbiamo cominciato a fare le prove per produrre i primi brani di quelli che saranno i Superman. E quindi per noi possiamo solo ringraziare, perché tramite questo primo passo poi ci sarà un futuro sicuramente, che sarà un EP o comunque un disco, e speriamo tanti live insieme a tanta gente, insomma, quindi è stato un avvenimento molto bello, insomma. Ma tra l'altro il nome Superman, come mai lo avete scelto? Ma Superman, cioè, come tutte le cose che fanno i Camillas e che facciamo noi, nascono da una casualità assolutamente pura, nel senso che a volte sposare anche la prima cosa che ti viene in mente non è comunque sbagliato, no? Nel senso che non tutte le cose vanno ragionate, perché comunque c'è il tempo dopo di pensare, no? Cioè tu comunque dici, ma uno dice, potremmo chiamarci Superman, sì, mi piace, non mi piace, e dici sì, ok, ci chiamiamo i Superman, poi ci penseremo a cosa saranno i Superman, perché ci è venuta questa idea, no? E le idee in realtà poi dopo vengono fuori, no? Ad esempio l'altro giorno Daniele diceva, potremmo chiamare il nostro disco Estrella, come stella, no? È detta in spagnolo, sì. In spagnolo. Così il disco sarà Superman Estrella, capito? Cioè, perché poi in realtà si unisce a quello che noi siamo, no? Delle specie di menestrelli che se ne vanno in giro a cantare cose assurde in giro per l'Italia. E Vittorio diceva, no, noi in realtà siamo i super meno, cioè è il diminutivo di, capito? Di essere meno di una cosa super, no? Perché comunque c'è questa componente che che ti porta a quella cosa lì, il fatto anche di insomma, chiaramente di essere proprio fisicamente non dei Superman, no? E anche avendo questa idea che la musica può fare tante cose, ma da sola non può salvare il mondo. Questa è una mia idea, ad esempio. Può dare grande forza, ma da solo non, perché c'è bisogno comunque di tantissime altre cose, no? E vabbè, Superman sono una specie di supereroi che potrebbero, hanno il potenziale dentro di sé di fare, ad esempio, di salvare delle vite umane, ma non lo fanno, non si sa per quale motivo. Non lo possono fare. Beh, però sono tantissimi motivi veramente bellissimi. Io devo dire che appunto ero stata colpita molto dal nome, perché io sono una grande fan di Grey's Anatomy, e in Grey's Anatomy spesso c'è la posizione di Superman, dove praticamente metti le braccia intorno alla vita e ti guardi allo specchio e appunto ti fai, cioè devi proprio sentire un supereroe, e così devi affrontare le cose difficili della vita. E io spesso prima delle dirette faccio questa cosa, o prima di salire sul palco, e quindi effettivamente bisogna un po' tutti sentirsi Superman. Quindi io non vedo l'ora di sentire i vostri brani nuovi. Spero che appunto anche il Sun Air possa essere un grandissimo omaggio per lui che non c'è più. È stato molto toccante quanto hai detto, ma sono molto felice che la vostra musica continui, e continui anche insieme. Certo. Fra l'altro è stata molto gradita uno dei nostri quattro brani che abbiamo scritto in questa residenza che abbiamo fatto, è una canzone che si chiama Condor, il Condor, parla proprio dei specialmente dei circoli arci, quindi è una specie di canzone dedica che chiaramente è cantata da Vittorio, adesso ha le parole che sono state registrate lì nella torre di Riolo. E sono, ecco, il testo è quello, poi sicuramente conoscendolo il testo poi varierà di concerto in concerto, per cui ogni volta il Condor avrà una nuove parole che si accavalleranno, ed è il racconto della sensazione che si ha ad andare nei circoli arci dove ci si ritrova, e poi a un certo punto c'è l'attesa, perché a un certo punto il coro dice, come fosse un coro greco, che dice: attenzione, perché da domani arriva il Condor, che non si sa bene se sia veramente un buon auspicio o un cattivo auspicio, non si capisce. Noi in realtà forse non lo sappiamo neanche, però comunque bisogna stare attenti, perché il Condor ha dei grandissimi poteri, soprattutto sui circoli arci. E quindi non vediamo l'ora di ascoltarla. E a proposito di questo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Noi ci rivediamo appunto al Sun Air Festival Ready to Play il 19 marzo, che sarete tra l'altro i primissimi della seconda serata, e io a questo punto direi di salutarci con una delle mie vostre canzoni preferite, che mi fa ballare sempre, che è Nonni Tatuati. È grandioso, dai. Grazie. Speriamo ancora di riproporla. Grazie a voi, e ci vediamo il 18 marzo allora. Assolutamente, ciao. Nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Noi siamo i nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Siamo milioni di nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Noi siamo i nonni tatuati, siamo i nonni tatuati, siamo i nonni tatuati. Nonni tatu, nonni palestra, nonni che girano per la città con in testa una cresta. Nonni maracas, nonni Nick Cave, nonni che vanno a comprare le zucchine sopra uno skate. Nonni tabacco, ne fumano un sacco. Nonni che mischiano la cocaina con il prosecco. Nonni tribali, mica male. Nonni vegani, mica male. Nonni che portano i nipotini ai rave illegali. Noi siamo i nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Noi siamo i nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Siamo milioni di nonni tatuati, nonni tatuati, nonni tatuati. Noi siamo i nonni tatuati, siamo i nonni tatuati, siamo i nonni tatuati. Ti, mi son tatuati.